Buona serata e benvenuti al venerdì di Hard & Heavy, la venerdì di Rock FM, la voce di Marco Gravelli, lo spazio di Hard & Heavy dedicato alla musica live. Si prospetta una grandissima puntata, non tanto per la mia voce eccetera, ma per i prodotti che andiamo a proporre, le due grandissime band, due grandi doppi vinili. E questa sera proprio da vinile, tutto vinile, anche se esiste tutte le riproposizioni in CD eccetera, ma li ho portati dal, lo sapete ormai, lo dico spesso, dal mio archivio privato. Prima parte dedicata all'album On Stage per i Rainbow, formazione Ronnie James Dio alla voce, Richie Blackmore chitarra, Tony Carey tastiere, Jimmy Bain al basso, il grande purtroppo scomparso Cozy Powell alla batteria. Di che cosa si tratta? L'album è il doppio On Stage, è un grandissimo live, uno dei top 5 live della storia della musica hard rock, uscito 30 anni fa ma sempre attuale. È il loro primo album dal vivo, pubblicazione 77, dopo due album in studio, arrivò al settimo posto in Inghilterra. Da notare che la produzione è stata curata dal mitico Martin Birch, celebre per aver lavorato con gli Iron Maiden nel loro periodo d'oro. Il primo pezzo è quello che apriva questo show, la bellissima Kill the King. firmata Blackmore, Dio Powell, questa Kill the King, brano d'apertura dello show, di questo concerto, di questo on stage, la formazione dei Rainbow. Il brutto, ecco, c'è un lato brutto di questo disco, ve lo dico, che ci vorrebbe un'intera puntata solo da dedicare a questo album, essendo un doppio. Vi sono brani molto lunghi, ad esempio la famosissima Mistreated dura un'intera facciata. La stessa vale per Catch the Rainbow, altrettanto splendida. Quindi ci sarà un po' da vedere cosa proporre questa sera. Intanto abbiamo iniziato con Kill the King, saluto coloro che sono all'ascolto di Hard and Heavy, ringrazio il nostro autore Simone che ha preparato come sempre validamente ogni sera tutte le note biografiche, nonché lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Allora, chi sono i Rainbow? Band inglese creata nel 75 dal bravissimo chitarrista Ritchie Blackmore, che ha ispirato diversi musicisti in seguito poi alla sua fuoriuscita dalla band chiamata Deep Purple, che ben conoscete. La curiosità è che Blackmore, per creare i Rainbow, rilevò la formazione degli Elf, che aveva già pubblicato 3 album, tutti tranne il chitarrista, perché logicamente era lui il chitarrista, e cambiò il nome da Elf in Rainbow. In quella line-up c'è da segnalare naturalmente il grande cantante americano Ronnie James Padovano, di origini italiane, conosciuto da tutti come Ronnie James Dio. L'esordio risale allo stesso anno con l'omonimo album, che andò bene in Inghilterra, arrivò all'11ª posizione. In occasione del secondo lavoro, il bellissimo Rising del 76, Blackmore decide di cambiare quasi tutta la formazione, eccetto il cantante, con l'ingresso di Jimmy Bain al basso, Tommy Carey alle tastiere e soprattutto Cozy Powell alla batteria. Quindi la formazione del live on stage. Andiamo ad ascoltare un altro grande motivo, 16th Century Greens Sleeves. Questo è un altro brano da on stage Rainbow. 16th Century Green Sleeves per i Rainbow dopo Kill the King. Arriva dopo il primo e il secondo album Rising proprio la pubblicazione di questo album, di questo doppio vinile dal titolo On Stage. A tour ultimato però segue un nuovo cambio di formazione con la sostituzione del bassista e del tastierista, e con la nuova lineup pubblicano nel 78 Long Live Rock and Roll, che ne accresce ancora di più la notorietà. Siamo al 79, altro cambio, addirittura triplo. Infatti Ronnie James Dio lascia la band per entrare nei Black Sabbath. Viene sostituito da Graham Bonnet ed inoltre in formazione entrano Roger Glover dei Deep Purple al basso e Don Airey alle tastiere. Il risultato è l'album Down to Earth. I successivi tre lavori vedranno un nuovo cantante, ossia il bravissimo Jolly Turner, appena fuori uscito dai Fandango. Nell'84 Blackmore scioglierà la band per rientrare nei Deep Purple. Bisogna attendere il 95 per ritrovare un nuovo e anche ultimo album in studio a nome Rainbow, dal titolo Strangers in Asa Hall, con alla voce Dougie White, che attualmente è il cantante di Yngwie Malmsteen. Nel 1998 Blackmore intraprenderà però una carriera solista, uscito ancora una volta dai Deep Purple. Solista mica tanto, insomma, perché c'è la moglie che ha voluto questo progetto. La moglie è Candice Knight. Il progetto che propone musica acustica e medievale si chiama Blackmore's Night. Qualcuno di voi li avrà visti dal vivo, perché sono arrivati diverse volte in Italia. Bene, allora andiamo a proporre una parte, perché visto l'orario, come vi dicevo, sono brani lunghissimi. Questa è un'altra delle canzoni tra le mie preferite dei Rainbow, che tiene un'intera facciata, qualcosa più di 15 minuti, quindi non riuscirò a proporvela tutta, ma vale la pena di ascoltarla per chi non la conosce, la bellissima ballad Catch the Rainbow. We'll be right back. Un'intera facciata dura questo brano, una lunghissima jam session a soli spaventosi. Ricordo la formazione: Ronnie James Padovano, alias Ronnie James Dio, voce; Richie Blackmore chitarra, Tony Carey tastiere, Jimmy Bay in basso, Cozy Powell batteria. Siete tutti in piedi perché di fronte a una lineup così tanto di cappello. Vi tiro le orecchie anche qualcos'altro: se non avete questo disco, questo CD, perché è uno dei lavori incredibili nella storia della musica hard rock, 30 anni, uscito 30 anni fa on stage. Devo dire che questo è il primo live della band, ne sono usciti poi una marea. Pochi mesi fa è uscito un bellissimo live Munich anche con il DVD, era sempre il periodo del 76, è uscito un live in Düsseldorf e pubblicherà tra breve, tra poche settimane uscirà un ennesimo album live dal titolo Live in Nürnberg. Sono praticamente lo stesso tour, probabilmente anche le scalette sono molto simili, però è il periodo migliore di questa formazione, quindi se volete avere tutto giustamente dovrete acquistarli. Se amate questa band non avete nulla, comunque vi consiglio questo doppio on stage, del quale oggi abbiamo proposto Kill the King, abbiamo riproposto 16 Century Greensleeves e poi questa lunghissima Catch the Rainbow. A tra poco, sempre su Rock FM. Bene, dopo la grande abbuffata di sound hard rock molto molto bello dei Rainbow, seconda parte di Hard and Heavy di questa sera. Signori, qui se On Stage the Rainbow è da mettere tra i primi 5 album live, questo se non è il primo, il secondo, non si scappa. Iron Maiden con il doppio vinile Live After Death, il loro primo album o secondo dal vivo se si considera un EP intitolato Made in Japan, uscito nel 1981. Questo doppio è uscito all'inizio nel 1985, dopo 5 album in studio è arrivato al numero 2 in Inghilterra. È stato registrato durante il World Slavery Tour di supporto all'album Power Slave, corredato da un bellissimo booklet fotografico, almeno così nella versione in vinile. La versione LP comprende il concerto che si è tenuto alla Long Beach Arena ed infatti celebre è l'urlo di Dickinson Scream for me Long Beach, più varie tracce live registrate all'Hammersmith Odeon di Londra. È disponibile anche all'epoca e penso anche tutt'oggi in versione VHS. Un live, se vi dicevo prima, vi tiro le orecchie, questo vi taglio la testa, metaforicamente parlando, se non avete questo live album. Formazione: Bruce Dickinson, voce; Dave Murray, Adrian Smith, chitarre; Nico McBrain, batteria; Steve Harris, al basso. E allora iniziamo. Qui è dura, È dura scegliere. 30 minuti non bastano, però cerchiamo di farceli bastare. E allora partiamo con questa The Trooper. We'll be right back. The Trooper, direttamente da Live After Death, Iron Maiden, primo brano che abbiamo proposto per una delle più celebri, se non la più famosa heavy metal band del mondo e la più rappresentativa in senso assoluto della New Wave British Heavy Metal. Band inglese in 32 anni di carriera, ha venduto più di 80 milioni di dischi, di album in tutto il mondo. La loro storia inizia nel 1975, quando il leader bassista Steve Harris creò la band in quel di Londra e per nome optò appunto in Iron Maiden, ispirandosi, lo sapete meglio di me, allo strumento di tortura chiamato appunto Vergine di Ferro, che è una sorta di sarcofago con all'interno degli spuntoni. A line-up ultimata, e soprattutto con l'ingresso di Dave Murray alla chitarra e Paul Di'Anno alla voce, registrano un demo dal titolo The Soundhouse Tapes, che coloro che sono all'ascolto, se avete l'edizione originale stampata in un piccolo EP a forma di 45 giri, vale un macello. Io ho solo quella ristampata, la seconda versione, che non varrà nulla, però The Soundhouse Tapes gli valse comunque un contratto con la prestigiosa etichetta EMI. Parteciparono anche ad una compilation, Metal for Mutas, con un paio di brani se non mi sbaglio, e arrivano finalmente all'album d'esordio del 1980, che arrivò al numero 4 in Inghilterra, e andarono a supporto di gruppi quali Judas Priest e The Kiss. Altro pezzo che vado a proporvi, ripeto, è sempre difficile scegliere nella loro scaletta perché sono una più bella dell'altra le canzoni. Questa è la magica Hello Be Thy Name. Waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time, 'cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. Yeah, the sands of time for me are running low. We'll be right back. dal doppio Live After Death. Stiamo proponendo e ascoltando naturalmente le tracce da questo stupendo doppio album dal vivo degli Iron, e continuiamo con la storia di questa band. Non bastano pochi minuti per descriverla, comunque noi ci proviamo. Abbiamo detto primo album, secondo è Killers, che vede il cambio di chitarrista con l'ingresso di Adrian Smith, che parteciperà attivamente anche alle stesure delle canzoni insieme a Steve Harris. L'album risulta migliore, possiamo dirlo, dell'esordio, ma le vendite saranno leggermente inferiori. Il terzo album si rivela fondamentale per la band. Infatti, a causa di problemi alla voce del vocalist Paul Di'Anno per il troppo alcol e fumo, viene cacciato dal gruppo nel 1981. Al suo posto arriva Bruce Dickinson, proveniente dai Samson. Il risultato è il celebre album The Number of the Beast 1982, in piena new wave of British heavy metal, che raggiunge il primo posto nelle classifiche inglesi. Tale album è considerato come uno dei migliori album di heavy metal di tutti i tempi, signori. Da qui in poi la band pubblicherà altri due eccellenti album immancabili per coloro che amano questo genere: Peace of Mind 1983, con l'ingresso di Nico alla batteria, e Power Slave 1984, album che sono arrivati al numero 3 e al numero 2 in Inghilterra. Ho citato Power Slave, allora ce l'ascoltiamo. Close in this temple. And Le note di Power Slave per la formazione degli Iron. Dopo il sesto album, Summer in Time, gli Iron ammorbidiscono leggermente il loro sound con l'utilizzo delle tastiere, ma il risultato è comunque ottimo. Segue il loro primo e unico concept album, Seven Son of the Seven Son, del 1988. Successivamente il chitarrista Adrian Smith lascia la band e il suo posto viene preso da Janick Jarrett. L'album No Prayer for the Dying risente di questa variazione, infatti risulta nettamente inferiore ai precedenti prodotti. Inoltre Dickinson decide di lasciare il gruppo per divergenze musicali, per concentrarsi sulla sua carriera da solista. Il suo sostituto sarà Blaze Bayley, che sarà sempre soggetto a critiche negative dalla maggior parte dei fan della band. Lentamente gli Iron calano di popolarità, complici anche due album privi di ispirazione. Parallelamente dobbiamo dire che la carriera solista di Dickinson comincia a ottenere ottimi responsi, anche perché ritorna a suonare un certo tipo di metal. Il risultato è però che nel 1999 Dickinson e Smith rientrano nella band, portando il numero di elementi da 5 a 6 per la prima volta nella storia del gruppo, ed ancora oggi questa è la formazione. Bene, un altro classicone del gruppo, uno dei tanti presenti su quest'album, è proprio Iron Maiden. Come into my room. Why don't you be one of us? Wanna un live album da brividi solo per la scaletta. È uno che vale Made in Japan, questo doppio live After Death degli Iron Maiden, il loro primo live. Ne sono seguiti poi tanti altri, ma come spesso accade, buona la prima ed è decisamente la migliore. Questo era il pezzo proprio Iron Maiden, uno sguardo all'orologio per dirvi siamo arrivati praticamente al termine. Vorremmo almeno un'altra puntata per proporre altre canzoni da questo live After Death e lo stesso per On Stage dei Rainbow. Chissà, magari in un prossimo futuro. Fatemi sapere qualcosa, potete scrivermi, lo potete fare di volta in volta ogni sera quando c'è Arden Devi a marco@radiorockfm.com. Potete riascoltare tramite il nostro sito www.radiorockfm.com le puntate di Arden Devi, quindi ve le potete ascoltare dall'inizio alla fine quante volte volete. Detto questo, ricordiamo che gli Iron Maiden saranno al Wacken Open Air del 2008, spero anche in Italia, perché il prossimo tour porterà non un album nuovo ma la seconda parte della loro carriera musicale. Se vi ricordate, nel Gods of Metal di Bologna arrivarono con i primi album, ora arriveranno proponendo le canzoni di Seven Son of the Seven Son, di Summer in Time e di Power Slave, quindi da leccarsi i baffi anche se non li avete. Vi lascio come di consueto insieme alla nostra regina del rock and roll Claudia, che segue direttamente il nostro spazio di Arden Devi. Un ringraziamento a voi, un ringraziamento a Simone per aver preparato il tutto, al nostro sponsor Bariposa Dischi, Corso Lodia numero 1 qua a Milano. Ci ritroveremo logicamente lunedì prossimo dalle 20 alle 21 con lo spazio novità.